Forti, un sinistro al volo impressionante. Tutti convocati di Giovanni Capuano. Peter Bescapè in regia, Franco Piantanide, autore di questa puntata di Tutti Convocati, perché siete tutti convocati in questo caldo lunedì di metà agosto in cui il calcio entra nella settimana in Italia che culminerà con la Supercoppa e piano piano tutti i campionati europei ripartono. E però noi oggi vogliamo concentrarci su chi in vacanza è davvero, o almeno dovrebbe. Oggi parliamo di motori, due ruote, quattro ruote, fate voi. Noi invece abbiamo scelto oggi di fare il punto sulla stagione di Formula 1 e MotoGP, stagioni che sono ferme ma che ci regaleranno dopo Ferragosto una volata che speriamo appassionante fino all'inverno. Buon pomeriggio da Antonio Boselli. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Ciao Antonio, buon pomeriggio. Squadra motori di Sky, io li immagino, i cervelli al lavoro a Maranello e non soltanto, malgrado il divieto per queste due settimane. È così o davvero sono tutti al mare? Allora, c'è una regola della federazione che impone una chiusura di due settimane per tutte le factory di Formula 1, poi possono decidere il tempo insieme in queste quattro settimane di stop. La Ferrari proprio insomma comincia oggi la sua vacanza, anche se vacanza non è, nel senso che effettivamente tutti i processi produttivi, l'ufficio tecnico, la gestione sportiva effettivamente è chiusa, però le menti sono sicuramente al lavoro. E poi siccome bisogna programmare in Formula 1, non si può mai improvvisare, in realtà tutti gli step per progredire, per anche evolvere l'F138 sono già stati deliberati e decisi, e sarà importante poi sulle piste di Spa e di Monza, le prossime due gare del Mondiale, cercare di riportare la Ferrari un po' più avanti rispetto a quello che abbiamo visto nelle ultime gare. E da quanto anche ha detto Felipe Massa, insomma, sia Spa e sia Monza dovrebbero essere delle piste abbastanza congeniali per la F138, che soffre invece un po' i circuiti più lenti, come abbiamo visto in Ungheria e presente a Monte Carlo. Sì, è secondo me anacronistico nell'epoca in cui con un tablet, con un personal computer da qualunque parte ti trovi nel mondo puoi disegnare progetti, puoi seguire sviluppi, puoi fare tutto quello che vuoi. È anacronistico secondo me questo regolamento che impone due settimane di stop. Lo hanno voluto in fondo i team, Antonio, per ridurre i costi, però io credo che sia difficile chiedere poi alle stesse squadre che vedono in questo periodo la possibilità di correggere degli errori, il caso della Ferrari, o di mettere giù le strategie per la prossima stagione. Io credo sia impossibile chiedere davvero di andare tutti in vacanza. Sì, ma guarda, poi tra l'altro insomma saprete tutti delle parole del presidente Montezemolo, che è stato veramente molto duro, come da tanto tempo non si ricordava. Solo per così anche ricordare ai radioascoltatori, Montezemolo lunedì dopo la gara in Ungheria ha regalato fisicamente un coltello a tutti i tecnici, facendo proprio riferimento e non certo per andare a fare il picnic a Ferragosto, immagino. Assolutamente, e la metafora era proprio: ragazzi, coltello fra i denti, adesso non si può più sbagliare. E oltre a questo poi ha condito questo comunicato che veramente ha lasciato molto, molto sorpresi un po' tutti gli addetti ai lavori, non solo, perché abbiamo rivisto un Montezemolo veramente durissimo, perché non vuole più rivedere delle prestazioni come quelle in Ungheria con appunto una Ferrari sicuramente dimessa, e anche un Fernando Alonso così che si è lasciato andare a delle parole che non sono piaciute in primis alla squadra e poi appunto in seconda battuta al presidente Montezemolo. Sì, le parole di Alonso, queste parole che hanno dato fastidio a Montezemolo, poi vi dico cosa ne penso. Alonso, da 4 anni che abbiamo una macchina tra mezzo secondo e un secondo più lenta del leader, e abbiamo lottato sempre fino alla fine per il campionato del mondo, quindi non penso che sia diverso quest'anno. Lotteremo fino alla fine e sarà sulle nostre mani se facciamo tutto a posto. Mancano ancora 9 gare e tutti quei punti in gioco sappiamo che dobbiamo dire ancora la nostra. Antonio Boselli, io in questo confronto dialettico che si è aperto tra Alonso e la Ferrari rappresentata da Luca Cordero di Montezemolo, ti dico la verità, sto dalla parte della Ferrari. Alonso ha mille meriti, però è troppo facile scaricare la responsabilità adesso che per il quarto anno consecutivo la stagione sembra compromessa o quasi, e siamo soltanto a metà. Sì, diciamo che sebbene diano molto fastidio delle dichiarazioni dove magari si tende così, no, ad addossare un po' tutte le responsabilità ai tecnici. Alonso ha anche detto, insomma, non sono io col pennarello in mano a disegnare le macchine, sono altri che devono farlo e devo guidare. E queste sono cose che soprattutto alla Ferrari danno fastidio, perché la Ferrari è una squadra con una tradizione, insomma, che non vi devo neanche ricordare. Detto questo, devo dire che dal punto di vista umano, Alonso, non voglio giustificarlo, però sicuramente vive una stagione abbastanza difficile, questa come le altre. Diciamo che si è visto sfuggire il titolo mondiale per due volte per pochissimi punti. Ha sempre fatto delle gare molto molto belle, con uno stress anche emotivo, non solo fisico, molto molto grande. Quindi, di fronte a una prestazione molto deludente, quella di domenica della Ferrari, è una sensazione di perdere anche questo titolo mondiale, perché si è visto la Lotus e la Mercedes guadagnare tanto terreno oltre alla Red Bull, probabilmente lo ha veramente lasciato con un sentimento così di depressione, tra virgolette, sportiva. Però ecco, quello che secondo me è importante è che appunto ci sia massima condivisione, massima unità di intenti, perché poi dopo si innescano delle dinamiche molto antipatiche. È stato fatto questo riferimento ad Alonso come Ibrahimovic, cioè come ad un fuoriclasse assoluto, che però da un certo punto di vista molto come dire, egoista, o comunque molto egocentrico. Credo che sia una metafora abbastanza calzante, nel senso che parliamo di un pilota e un calciatore con dei mezzi tecnici, con un talento assoluto, che però ogni tanto poi esterna con delle battute che non sono proprio così improntate all'unità di intenti della squadra. Sì, io quindi ho l'impressione, Antonio, che siano servite. Di sicuro, insomma, le parole di Montezemolo hanno segnato uno spartiacque tra quello che era una gestione dove Alonso veniva in qualche modo sempre comunque coccolato, agevolato e difeso, ad una gestione adesso dove ognuno è messo di fronte alle proprie responsabilità, e chissà che questo così non possa produrre un effetto positivo. Comunque lo stesso Montezemolo ha poi ribadito che il futuro è con Fernando Alonso, volendo smentire un po' tutte quelle voci di mercato. Lo avrete anche visto, letto sui giornali, di questo incontro del manager di Alonso in casa Red Bull con Christian Horner, che ha fatto e ha suscitato tanto scalpore. Ma da quel punto di vista lì Montezemolo è stato molto chiaro: il futuro della Ferrari con Fernando Alonso. Sì, io ho l'impressione che Alonso dentro di sé sia convinto di essere ancora il pilota migliore che c'è in giro in Formula 1, e di non riuscire a vincere per colpa della Ferrari. Io te la lancio come provocazione: penso che forse Vettel e in parte Hamilton in questo momento potrebbero coltivare pensieri simili, perché Alonso fa la differenza ma non la fa più come un tempo, perché qualche decimo di secondo alla prestazione della Ferrari in meno dovrebbe arrivare anche dalla capacità dello spagnolo. E ho letto da qualche parte il resoconto degli ultimi 20 Gran Premi, 2 vittorie, mai partito dalla prima fila. Insomma, credo che un po' di autocritica debba farla anche Alonso, non solo la Ferrari. Sì, guarda, poi se andiamo anche a vedere un po' l'inizio di questa stagione, dove la Ferrari era veramente competitiva, ha commesso 2 errori che hanno poi pregiudicato il risultato, nel senso che c'è stato questo contatto in Malesia, poi la decisione di rientrare e di non rientrare box, quindi del ritiro, vi ricorderete quando si è staccata l'ala anteriore, anche e che adesso pesa, perché aveva avuto l'indicazione di non premere l'ala posteriore mobile, era rotta, e lui l'ha fatto in un gesto dovuto poi all'automatismo, no? Dei piloti di Formula 1. Quindi considerando quei punti adesso sarebbe minore il distacco, a meno di 39 punti, però poi sono tutti ragionamenti con i se e con i ma. Anche il discorso delle prestazioni della valutazione della stagione di Alonso è anche difficile farla, nel senso che bisognerebbe poi tornare sempre a quello che è un po' il principio, no? Che viene fatto al bar, ma che poi in effetti rispecchia un po' la realtà. Bisognerebbe vedere i piloti sulle macchine degli altri per vedere effettivamente il valore poi delle prestazioni. Di sicuro c'è un aspetto psicologico molto importante nella testa di Alonso, è che fondamentalmente vede per il quarto anno consecutivo il titolo andare nella direzione di un pilota che lui non stima, anche se ultimamente ci sono state delle parole un po' più dolci tra i due, anzi in realtà di Alonso nei confronti di Vettel. Fondamentalmente Fernando Alonso di Vettel è un ottimo pilota, ma non un campione e non sicuramente al suo livello. E quindi vedere che lui è rimasto fermo a due titoli mondiali, tra l'altro che risalgono al 2005-2006, e vedere invece Sebastian Vettel, che rischia di diventare quattro volte campione del mondo più giovane della Formula 1, proprio un malessere, una frustrazione nella testa di Alonso, che ha massimo rispetto per Hamilton, anche per Raikkonen, ma proprio non lo ritiene un pilota alla sua altezza, e questo secondo me genera in lui proprio anche una frustrazione abbastanza forte nei confronti insomma del dominatore di questi ultimi anni. Vi sì, e che credo Antonio si avvia anche a dominare questa stagione. Certo, per chiudere, Antonio Boselli, hai parlato di Raikkonen, c'è chi ha scritto in questi giorni che alla fine la scelta della Ferrari potrebbe essere provare a mettere insieme Raikkonen con Alonso, un po' per stimolare lo spagnolo, un po' anche eventualmente per prepararsi a una sua fuga, magari non quest'inverno, parliamo dell'inverno prossimo, ma insomma non restare scoperti. È credibile secondo te come scenario? Guarda, io credo che Raikkonen andrà quasi sicuramente alla Red Bull. Quello che so io per certo è che Stefano Domenicali ha mantenuto un ottimo rapporto con Kimi, e c'è stato un contatto anche prima dell'Ungheria tra la Ferrari e Kimi, però non si è parlato, diciamo, si è andato anche a parlare di cifre, ma poi alla fine è stato più un'idea, un pensiero, anche perché il proprio presidente Montezemolo non è convinto della scelta su Kimi Raikkonen. Per quanto riguarda il futuro di Alonso, io credo che rimarrà fino alla scadenza del contratto. Ricordiamoci che l'anno prossimo ci sarà una rivoluzione regolamentare fondamentale con la reintroduzione del turbo, quindi secondo me si aspetterà almeno la prossima stagione sul secondo pilota della Ferrari. E comunque, così come battuta polemica finale, ma polemica ma non troppo, mi piacerebbe vedere al fianco di Fernando Alonso un pilota già formato, un piedone, tipo appunto un Raikkonen o magari un Button, o anche, cosa che non si potrà verificare, Webber, perché si ritirerà a fine stagione, proprio per il discorso che facevi tu, per vedere il livello di Alonso e anche un po' per sfrezzarlo, perché avere un compagno come Felipe Massa che effettivamente non ti mette alla prova durante i Gran Premi, secondo me ti può abbassare l'attenzione. Non c'è dubbio, grazie Antonio. Grazie a te, ciao Giovanni. Grazie ad Antonio Boselli, squadra motori di Sky. Noi ci fermiamo perché ci sono le notizie sul traffico, poi però continuiamo a parlare della Ferrari e di questa mezza stagione che manca della Formula 1, e lo facciamo con Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport, e proviamo anche ad allargare un po' il discorso, anche a capire a che punto è la Ferrari, perché le parole di Luca Cordero di Montezemolo, ad esempio sul futuro di Domenicali, sul futuro di Eccleston, su quanto e come sta lavorando Jean Todt alla federazione, sono parole che meritano di essere approfondite. Tutti convocati. Said Alonso nella conferenza stampa ha detto che gli piacerebbe avere la macchina di qualcun altro. Domani è il suo compleanno. Gli vorresti regalare la tua macchina? No. Non è davvero un complimento al suo team. Credo che loro stiano spingendo molto duramente per dargli una macchina competitiva, ma... If it was me to decide, se fossi io a decidere, di certo non gli do la mia macchina perché mi piace. E del resto, perché mai Vettel dovrebbe regalare la sua Red Bull ad Alonso? Buon pomeriggio ad Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Buon pomeriggio, direttore. Buon pomeriggio a tutti. Perché mai dovrebbe regalargliela? Non ci sono motivi, oggettivamente. Ma anche se credo che sarebbe molto divertente vedere Alonso e Vettel sulla stessa macchina, perché così finalmente vedremo chi è il più veloce dei due, anche se non sono sicuro che poi il ferrarista l'avrebbe vinta, pur essendo straordinario in gara, qualche volta in qualifica è inferiore a Vettel. Sarebbe divertente, credo che non lo vedremo, ma sarebbe divertente, come lo è sempre stato nella storia della Formula 1, vedere due assi nella stessa scuderia. Sì, credo anch'io che non lo vedremo. Parlavamo prima con Antonio Boselli, sarebbe bello vedere almeno un piede pesante, non è detto quello del tedesco, insieme ad Alonso in Ferrari nella prossima stagione. La suggestione è quella di un ritorno di Kimi Raikkonen, però è difficile, sarebbe bello quantomeno per dare ad Alonso quegli stimoli che mi sembrano siano un po' mancati, e mi sembra se ne sia accorto anche Montezemolo, di qualche giorno fa intervista al Corriere della Sera, che mi sembra sia da leggere tra le righe, e il messaggio numero uno è che Montezemolo ha capito che si tratta forse dell'estate più difficile nell'era recente per la Ferrari, questa. Sì, è un'intervista, un messaggio in cui ci sono due avvertimenti. Uno a Massa, però era abbastanza scontato, perché io credo che l'avventura di Massa in Ferrari sia finita, anche se non è facile trovare un sostituto gradito ad Alonso, un sostituto che possa dare una mano alla Ferrari a conquistare delle posizioni importanti nel Mondiale Costruttori, allo stesso tempo senza però mettere in difficoltà la leadership dello spagnolo. E il secondo avvertimento tra le righe è quello a Stefano Domenicali, perché anche per lui, Montezemolo ha detto, parleranno i risultati a fine stagione. A Domenicali si imputa quello di essere un po' troppo buono, di dire troppi sì ai suoi collaboratori, ai tecnici della Ferrari. Adesso dal 1 settembre arriverà Allison, che porterà un po' di fantasia, porterà un po' di creatività. Non credo che possa bastare a rivoluzionare questa vettura, a rivoluzionare i risultati di questa stagione, però sicuramente è necessario per impostare al meglio la prossima stagione, che è quella del cambio epocale dal punto di vista motoristico. Quindi ci sono sotto esame Massa, anche se credo che il recupero sia impossibile da parte sua, ma anche il capo della gestione sportiva della Ferrari, cosa che non era mai avvenuta nelle ultime stagioni. Sì, su Massa credo che Montezemolo debba fare anche un po' di serena autocritica, perché Massa era nelle stesse condizioni un anno fa, ha fatto allora, è vero, una buona seconda metà di stagione, però è anche vero che poi la sua conferma ha sotto la firma di Montezemolo e riletta un anno dopo è un errore. È un errore, anche se all'inizio dell'anno abbiamo visto il Gran Premio di Barcellona in Spagna, Massa aveva fatto una delle buone prestazioni, come l'aveva fatta in qualifica nelle primissime gare della stagione, però poi è mancata la costanza di rendimento, è mancata la competitività in gara, è sempre rimasto lontanissimo dal suo compagno di squadra. È stato un errore confermarlo l'anno scorso, credo che sia un errore sì sotto la firma di Montezemolo, ma che porta anche le firme di Domenicali e dello stesso Fernando Alonso, che non voleva un compagno di squadra più pericoloso. Però va detto che un anno fa il grande indiziato per un posto in Ferrari era Perez, e non è che Perez in McLaren quest'anno ha fatto delle grandi cose. Sì, anche in giro in questo momento, al di là di questa suggestione di Kimi Raikkonen, che però facilmente finirà in Red Bull, non è che ci sia molto. A proposito di Domenicali, io reputo difficile, quasi impossibile, che la Ferrari possa rimettere in piedi questa stagione, se per rimettere in piedi si intende riuscire ad arrivare al titolo mondiale per Alonso. Lo ritengo quasi impossibile nel caso del titolo per team. Che cosa sta chiedendo Montezemolo a Domenicali? Di vincere il mondiale con Alonso e allora resta, o almeno di riportare la Ferrari a essere competitiva dal venerdì alla domenica? Vincere il mondiale mondiale non credo a un'impresa, come dici giustamente tu, abbastanza impossibile. Io credo però a vedere una Ferrari che vinca almeno 2-3 gare nel finale di stagione, magari con un Gran Premio d'Italia in mezzo, sia qualcosa alla portata della scuderia, sia qualcosa che serva a far capire che si è svoltato. La Ferrari ha avuto delle grandi difficoltà a interpretare le nuove gomme, l'arrivo delle nuove Pirelli l'ha messa sicuramente in grande difficoltà, però è stata la scuderia che ha reagito peggio al nuovo gomme. Ci sono delle colpe sicuramente anche all'interno della scuderia per come è mancata l'evoluzione della vettura e per come è stata sbagliata l'interpretazione delle nuove Pirelli, con qualche colpa anche per Alonso, perché io sono sempre dell'idea che quei test a Silverstone lui li avrebbe dovuti fare. È vero che poi l'ultima gara l'ha vinta chi quei test non li aveva fatti, però la Ferrari era la vettura che aveva più difficoltà nell'interpretare le nuove gomme e l'aiuto di un nuovo, del suo primo pilota, forse l'unico che ha, sarebbe stato fondamentale. Sì, credo anche a livello di simbolo, del messaggio da lanciare al team, quel coltello da mettere tra i denti che Montezemolo ha regalato dopo l'Ungheria a tutta la squadra, perché metaforicamente significa che serve l'impegno massimo per la seconda parte della stagione. Beh, io credo che il coltello tra i denti di Alonso sarebbe stato presentarsi a Silverstone per dei test magari in parte inutili, magari che si potevano svolgere tranquillamente senza i top driver, ma che avrebbero dato il significato pieno di una volontà di riscatto. Anche da questo punto di vista mi sembra che in questo momento i rapporti tra Alonso e la Ferrari siano ai minimi storici, ne parlavamo prima anche con Antonio Boselli. Personalmente ritengo che forse Alonso non sia nemmeno in questo momento più il numero uno in assoluto del circus, però mi rendo conto, direttore, che su questo si possa ampiamente discutere, del resto lo fanno anche i nostri amici da casa. Il feeling tra la squadra Alonso sì, ai minimi storici, hai perfettamente ragione, ma ai minimi storici perché Fernando tutte le volte che esplode ultimamente dice, praticamente lascia intendere, io sono il numero uno, sono il migliore, chi sbaglia è qualcun altro in fabbrica e qualcun altro a Maranello. Sono cose che non avvenivano ad esempio ai tempi di Schumacher, che è sempre stato molto partecipe dei problemi della squadra. Quando la Ferrari andava male, ed è andata male spesso anche con lui nei primi anni, addirittura Schumacher ci ha rimesso una gamba, non dimentichiamolo, però mai ha incolpato la squadra, soltanto la squadra, si prendeva le colpe insieme a quelle del team. Questo è quello che un po' è mancato all'Alonso, infatti è stato giustamente, credo, ripreso dal presidente, che gli ha ricordato che la Ferrari è una famiglia, che la Ferrari è una squadra, il gioco di squadra è sempre stato uno dei punti di vantaggio della Ferrari, e rompere questa armonia sarebbe veramente grave. Provando un po' a spostare la visuale, abbiamo ancora un mondiale in questa seconda metà della stagione o sarà un monologo di Vettel? La classifica, e lo ricordiamo, dice 172 punti per il tedesco, 134 per Raikkonen, che ne ha 38 da recuperare, 133 per Alonso, 124 per Hamilton. Mi fermerei qui perché da Hamilton in giù mi sembra che le anche scarse possibilità di rientrare in un discorso mondiale si azzerino. Abbiamo o no questo mondiale da qui a novembre? Ma guarda, ricordiamoci che un anno fa in questo periodo era Alonso ad avere una quarantina di punti di vantaggio su Webber, che era seconda, addirittura di più su Vettel, quindi il mondiale è sicuramente aritmeticamente aperto, ma lo è soprattutto, io credo, per Hamilton, perché la Mercedes ha trovato una grande competitività non soltanto in qualifica ma anche in gara. E lui mi sembra in una forma straordinaria, se manterrà questa forma e questa fame dopo la pausa estiva diventa lui il grande avversario di Vettel. Vettel resta il favorito, Alonso diventa il suo Hamilton diventa il suo grande avversario. Alonso sinceramente sarebbe un miracolo rivedere, anche se ha più punti di Hamilton, però per come sta andando la Ferrari in questo momento sarebbe un miracolo. Raikkonen può divertirci, non lo vedo con la costanza di rendimento per aspirare al titolo mondiale, soprattutto non vedo la Lotus come squadra che possa garantire dei miglioramenti da qui alla fine dell'anno. Sì, poi nessuno mi toglierà dalla testa che quei 1000 chilometri di test più o meno clandestini fatti dalla Mercedes prima di Monte Carlo abbiano in qualche modo indirizzato il resto della stagione. Credo che la controprova non ci sia, però c'è un prima e un dopo, direttore. C'è un prima e c'è un dopo, però non va dimenticato che c'è un prima e un dopo anche per le gomme. Sono cambiate le gomme usate dalla Pirelli, sono gomme che favoriscono sicuramente la squadra che prima era più penalizzata dal consumo delle gomme, perché sono gomme che adesso patiscono meno il consumo, e che in un certo senso era quello che voleva la Mercedes. Quindi i test sono serviti tantissimo, ma è servito tantissimo anche quello che è successo in pista a Silverstone nel Gran Premio, e quindi che ha portato al cambio delle gomme, cosa che, ricordiamoci, Lotus e Ferrari avevano cercato di osteggiare in tutti i modi. Grazie Umberto Zappelloni. Grazie a voi, buon pomeriggio, buon proseguimento. Grazie Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Io la ricordo, la classifica del mondiale della Formula 1: Vettel 172 punti, Raikkonen 134, Alonso 133, Hamilton 124. Si riparte a fine mese da Spa. Le possibilità della Ferrari, secondo me, siamo sotto il 20% di riaprire il discorso mondiale con Alonso, e sono praticamente nulle per quanto riguarda il mondiale costruttori. Noi ci fermiamo adesso, c'è la borsa, poi passiamo dalle 4 alle 2 ruote, parliamo della MotoGP. Tutti convocati. Io non so se abbiamo ancora un mondiale di Formula 1 che ci possa far appassionare. Sono sicuro che abbiamo un mondiale di MotoGP, abbiamo una seconda parte di stagione con i risultati ancora da scrivere. Roberto Ungaro, direttore di Riders, buon pomeriggio. Ciao, buongiorno a tutti. Abbiamo ancora un mondiale di MotoGP? Sì, ce l'abbiamo. Beh, assolutamente sì, perché dopo il giro di Boa, 9 gare disputate, ce ne sono altrettante, questa è la pausa estiva, ma sono tutti abbastanza vicino, perché a livello di campionato Marquez è la rivelazione davanti, ma solo 16 punti, e poi 26 Lorenzo. Addirittura direi che Valentino, stando lì sornione e aspettando gli errori degli altri, con 46 punti il suo numero di distacco da Marquez, non è ancora chiuso il capitolo per lui, anche se direi che Marquez è veramente la rivelazione. Sì, è una stagione, è un anno questo 2013 che sta trascorrendo davvero nel nome di Marc Marquez. C'è chi l'ha paragonato da subito ai grandissimi del passato. Ci affidiamo alla tua esperienza, visto dopo mezza stagione, dove lo cominciamo a collocare? Beh, direi di sì, perché negli anni 70, quando arrivarono gli americani, fu la rivoluzione anche per lo stile di guida, e la stessa cosa si può dire per lui, perché nessuno aveva mai toccato il gomito, per esempio, come sa fare lui. Bisogna ricordare che le gomme Bridgestone lo consentono, e lui è proprio il frutto della scuola spagnola. C'è una vera e propria scuola, Mulao si chiama, era nata per istruire i meccanici, che non ce n'erano di meccanici spagnoli in quel paese, e poi si è trasformata per i piloti. Lì ti insegnano fin da piccolissimo a diventare pilota, che vuol dire anche parlare l'inglese, saper relazionarsi, cioè vedono il tuo talento e ti portano avanti. Ecco, lui è il frutto di questa scuola, e vincente in 125 con la Derby, vincente in Moto2, tutti sapevano che avrebbe fatto la differenza, però sinceramente essere vincente al debutto non se lo aspettavano in tanti, e quindi è lì la rivelazione. La nuova generazione di MotoGP, l'elettronica, lo consente, perché in passato questo non sarebbe stato possibile, ma lui è veramente un fenomeno, e poi è pratico, risulta, è positivo, è il nuovo Valentino, gli sponsor lo adorano, è ben più famoso in Spagna già di Pedrosa e Lorenzo, che hanno una lunga carriera alle spalle, e non ha niente da perdere, perché lui, appunto, essendo al debutto, ma l'abbiamo visto tutti che cosa sa fare, non la manda a dire. È l'unica cosa, speriamo che stia in piedi, nel senso che la MotoGP poi ultimamente, devo dire, non si è fatto un'analisi, però avete visto quanti high side, quante cadute dove il pilota viene diserzionato. Dopo ne parliamo, che questa è, da questo punto di vista, è un aspetto interessante. È una stagione che ci ha riportato, io ho letto da qualche parte, addirittura alla 500, all'epoca della 500, sì. Con questa forzatura da parte anche dei piloti di azzerare se possibile l'influsso dell'elettronica, però questo ha riportato il motociclismo indietro indietro di qualche anno. Restando su Marquez invece, Roberto Ungaro, ho letto da qualche parte che ha detto: Marquez vince il mondiale se è fortunato. Io credo che pecchi di umiltà. Marquez vince il mondiale se continua a correre così. Certo che Lorenzo e Pedrosa gli stanno dando una mano a proposito di cadute e di infortuni. Cioè, da questo punto di vista, per la lotta al vertice sta uscendo una stagione anomala. E questi sono stati tanti colpi di scena. Lorenzo non ha mai sbagliato, in precedenza lo fece con delle cadute violente, ma poi recuperò. È stato questo, anche Pedrosa, con la seconda metà di stagione l'anno passato, si pensava partisse subito molto forte, invece anche lui non era a regime. I colpi di scena lì davanti, e questo è anche dovuto all'esasperazione che la MotoGP ha ricevuto, hanno favorito sicuramente Marquez, ma trovarsi davanti con un compagno di squadra così scomodo come Dani Pedrosa, immaginiamoci anche i giochi di squadra, gli equilibri, non dover sbagliare nei confronti di un HRC che non sta ferma. Dobbiamo calcolare che l'HRC ha sviluppato la moto su Pedrosa, molto piccolo, anche Marquez è piccolo e quindi anche da questo è facilitato. Per esempio su una Yamaha non avrebbe fatto assolutamente gli stessi risultati, una Yamaha che è fatta e concepita per uno stile di guida pulito come quello di Lorenzo o di Valentino. Insomma, una concatenazione, una serie di cose che messe tutte in atto hanno giocato veramente a suo favore, e quindi è lui il futuro, e secondo me ci sarà ben poco da fare. Sì, poi parliamo di elettronica, mi sembra però che le cadute, le difficoltà di Pedrosa e Lorenzo siano un po' anche la spia di una tensione. In fondo entrambi quest'anno hanno dei compagni di squadra scomodi. Pedrosa ha un compagno di squadra scomodo perché è Marquez ed è il talento del futuro, è il pilota destinato probabilmente a segnare i prossimi 10 anni nella MotoGP. Lorenzo ha Valentino Rossi, che di futuro davanti ne ha ormai poco, ma che certamente lo sta, io credo, mettendo anche in difficoltà, gli sta mettendo un po' di pressione. Valentino su Lorenzo, dici? Sì. Ma sì, anche se la spina nel fianco di Lorenzo è la Honda. È la Honda che è una moto sicuramente più competitiva, tant'è che domani sarà la Yamaha a Brno, in Repubblica Ceca, a provare il nuovo cambio seamless, quel cambio che consente di guadagnare qualche decimo, la cambiata rapida. Se si guarda a bordo pista si sente una Honda, è impressionante perché sembra quasi un monomarcia, cioè non si sente lo stacco tra una marcia e l'altra. Bene, la spina del fianco di Lorenzo non è secondo me Valentino, lo può anzi motivare, molta umiltà accettare questa cosa, e quindi sono Pedrosa invece, è la Honda, è una moto sicuramente molto più competitiva, è un Marquez che gli nasce in casa e nella stessa Spagna, e ha più seguito, ha più sponsor, sta crescendo vertiginosamente i propri contratti, è questa l'ansia secondo me che Lorenzo sente addosso più che un Valentino, perché se la sono già giocata ad armi pari con il muro nel box, vi ricorderete, quindi la storia tra Lorenzo e Valentino è già stata scritta, e questa è stata un'opportunità che Yamaha ha dato a Valentino per rientrare, per ritornare, per far vedere che lui non era finito, i 2 anni nel freezer Ducati non lo avevano segnato definitivamente, e qui si può parlare, è che, voglio dire, lui è alla fine della sua carriera e quindi è anche questo che condiziona parecchio, ma secondo me Lorenzo è stato messo così sotto pressione da altre cose, non da un Valentino, a mio giudizio. Sì, troppo giovane, dici, per abdicare al ruolo di re, non è ancora pronto a vedere uno più giovane, connazionale, lo hai descritto, più simpatico, più appetibile per gli sponsor e che va più veloce di lui anche. Esatto, ma è che apprende subito, perché ricordiamoci che nella classe regina storicamente è impossibile vincere al debutto, è questa cosa che sta segnando un po' tutti, perché nessuno nell'ultima generazione c'era riuscito. Bene, invece Marquez sta sconfessando questa regola non scritta, ed è quello che impressiona. Io conosco bene il suo telemetrista e mi dice: è impressionante quello che gli si dice, lui mette in atto, ha una sensibilità incredibile, può essere paragonato solo a Casey Stoner. Tra l'altro è interessante il rientro nei test ufficiali che HRC farà proprio dopo a Motegi, perché sta portando avanti la Honda 2014, e hanno chiamato in causa Casey Stoner. Tanto si è detto: torna a correre sì, torna a correre no, si è annoiato col campionato di turismo che fa in Australia. Intanto Honda, che deve portare avanti, perché non si ferma, Honda, il dominio di Honda c'è ma non si ferma, e in questi test ufficiali torna in pista che esistono. Addirittura hanno prenotato, mi sembra, 4 appuntamenti di 2 giornate ciascuna. Lui, che odia provare, ha sempre odiato provare, tant'è che entrava in pista, faceva 2 giri e piazzava subito il tempo, era la persona che stava più ai box di tutti i piloti. Lo hanno richiamato in causa. Questo fa anche capire l'estremizzazione, cioè il livello che c'è. È vero che c'è la crisi, è vero che c'è un ridimensionamento di tutto, ma la MotoGP, che è lo stato dell'arte, della tecnologia, va avanti. Ben diverso invece della Superbike, che sta soffrendo molto. Sì, parliamo di cadute, le abbiamo citate prima, questi disarcionamenti, c'è da parlare di elettronica, c'è da parlare della spinta che gli stessi piloti danno per arrivare al limite, che forse necessita qualche passo indietro, perché al di là di quello che può essere il condizionamento della classifica con dei corridori di primo piano costretti a saltare una o due gare, come è capitato a Lorenzo e poi è accaduto anche Pedrosa, al di là di tutto questo c'è però che si cominciano a correre dei rischi eccessivi. Sì, questi sono dovuti a 2 fattori fondamentalmente. Quando cercano di fare il tempo, cioè nel giro secco, i piloti limitano l'intervento dell'elettronica, cioè la rendono meno invasiva, e questo ai fini della sicurezza ovviamente è molto più rischioso. Voi immaginate che quando la moto sta per derapare, sta per perdere aderenza, interviene appunto come una mano amica l'elettronica. Ecco, loro cercano di arrivare al limite di quella soglia di sicurezza e gestiscono loro nel polso con la sensibilità, però questo si può fare per un giro secco, 2 giri secchi, per cercare il tempo e partire là davanti in griglia, altrimenti la gara parte in salita. L'altro aspetto è la gomma Bridgestone, tanto criticata, una gomma che ha difficoltà, non avvisa assolutamente, ma sta lavorando molto e dovrebbero arrivare delle nuove mescole, una Bridgestone, una nuova configurazione che dovrebbe risolvere questo problema. Certo è che si vedono degli high side, cioè i piloti disarcionati, se fossero catapultati da un toro impazzito, e questo provoca, per esempio nel caso di Lorenzo, abbiamo visto, cadere dall'alto, l'impatto a terra è violento, notevole, e ovviamente si rompono le ossa, mentre invece prima, negli ultimi anni, la moto scivolava, non perdeva mai aderenza al posteriore, fateci caso, perdevano l'anteriore, ma quando si cade sull'anteriore ci sono meno conseguenze fisiche, perché si scivola e quindi non ci sono problemi, a meno che si finisce nella ghiaia, allora il corpo si punta e quello potrebbe portare dei problemi. Questo è un aspetto, secondo me, che si è visto tanto in questa stagione e non si è andati ad analizzare questa cosa. Secondo me rimane un po' nel box tra gli addetti al settore, però è un aspetto molto interessante. Sì, se mi posso permettere, sarebbe il caso di analizzarlo prima di dover raccontare magari qualche vicenda un po' più spiacevole, anche di una clavicola rotta che già è dolorosa e, come abbiamo detto, può anche condizionare la corsa a un mondiale. Non dimentichiamoci, Roberto, questa è stata un'estate tristissima per gli appassionati di motociclismo in Italia, è stata l'estate della scomparsa di Andrea Antonelli. Si è molto parlato di sicurezza, di condizioni di gara, condizioni minime di sicurezza per far partire un gran premio, si è anche polemizzato. Io ho il timore, e te lo confesso, che appena spenti i riflettori, e i riflettori si stanno spegnendo, poi torni a essere preponderante la voglia di arrivare primi, di andare più veloce, di staccare il tempo, di far partire una gara perché ci sono degli interessi. Ecco, allora io dico, a proposito dei disarcionamenti, meglio parlarne, meglio provare a cambiare subito prima di raccontare una storia diversa dopo. Certo, infatti qualcosa si sta muovendo, per esempio c'è una safety commission anche in Superbike, si sta creando, anche se c'è già la polemica, la safety commission fatta dai piloti, è vero che loro sono i protagonisti, però spesso il pilota non sente ragione, la sua visione è condizionata dal fatto che deve fare stato, quindi forse anche una persona esterna, super partes, riesce a dare un giudizio, e questo per la safety commission. Io torno un attimo indietro però e dico che di motociclismo purtroppo, ma diciamo di sport motoristici, si muore, la componente rischio pericolo c'è, è insita nella disciplina e è brutto dirlo, ma fa parte anche un po' del fascino di questo sport. Poi, se andiamo ad analizzare il caso di Antonelli, bisogna, secondo me l'imputato è l'asfalto, cioè bisogna capire se veramente quello che si è sentito dire, cioè che non drena l'asfalto a Mosca perché c'è un legante con le temperature rigide che hanno loro, non possono fare un asfalto che va bene in altri paesi come i nostri, e quindi questo non consente un drenaggio sufficiente. Questo è quello che avevo letto. Ecco, secondo me questa è l'unica componente da andare ad analizzare, ma se non fosse così, è fatalità. Quando si corre con l'acqua c'è poco da fare, è una nuvola, tutti dentro, attaccati, è componente di rischio che purtroppo ha. È vero, bisogna parlarne, bisogna fare le cose. Per esempio ci sono dei tracciati, dei circuiti che non sono ancora negli standard di sicurezza. La stessa Laguna Seca, spettacolo affascinante, però presta i fianchi a... Pista da brividi, pista da brividi. È da brividi, bellissima, bellissima però, ma da brividi. Tutti convocati. Siamo con Roberto Ungaro, direttore di Riders. Chiudiamo il discorso su questa prima metà di stagione della MotoGP. Che voto diamo, Roberto, alla Ducati? Purtroppo è un 4, un 5, un'insufficienza grave, ma lo si sapeva, perché ci vuole tempo per riscrivere una moto. La Ducati è nata male, nel senso che, io l'ho sempre detto, è nata con un motore portante, cioè priva di telaio. Poi sono stati fatti dei rattoppi, cioè gli è stato messo un telaio, ma se il motore nasce grosso e quindi ha delle rigidezze, dei pesi, dei volumi importanti, perché deve fungere da telaio, è impossibile che questo sia competitivo poi se gli metti attorno uno scheletro, il telaio appunto. Cioè deve rinascere da un foglio bianco, motore e ciclistica integrati, una parte unica. Per fare questo ci vuole tempo. È vero che c'è Audi, ci sono i soldi, c'è assolutamente il metodo tedesco e il cuore rimane a Bologna, questo è positivo, però ci vuole del tempo, e infatti il buon Dovizioso ha già fatto dei miracoli. Secondo me, a me dispiace da un lato vedere un Crutchlow che ha firmato per 2 anni con Ducati, perché Crutchlow è in ascesa, era adesso che doveva dimostrare, lo ha già fatto vedere quanto vale, e invece così per 2 anni lo perdiamo. E la stessa cosa Dovizioso, ma Dovizioso era, permettetemi, non a fine carriera, però le sue carte le ha giocate in HRC ufficiale, e quindi decuplicare il proprio ingaggio, perché Andrea Dovizioso l'anno scorso nel Team Tech 3 guadagnava veramente poco, e passando in Ducati ha guadagnato 10 volte di più, ma lo capisco da parte di un Andrea Dovizioso. Da un Crutchlow arrembante inglese con la voglia di affermarsi è già più difficile da capire. Torno alla Ducati, è un problema, quest'anno sono andati addirittura delle gare con 4 configurazioni diverse, 4 telai diversi su 4 piloti. Come si fa a capire il bandolo della matassa? Ne ha fatte di tutte, abbiamo visto Iannone che è un pilota esuberante, anche lui non riesce, perché è una moto molto difficile, è una moto assolutamente non competitiva se paragonata allo stato dell'arte giapponese. Vuoi 4 cilindri in linea come Yamaha, vuoi invece con la configurazione del motore di Honda. Sì, io credo, Roberto, ci vorrà ben più di 2 anni per rivedere la Ducati a dei livelli di competitività, ben di più. Ben di più, cioè ci vorrebbe un team a parte, non è detto che non sia così perché lo stanno facendo, comunque ridisegnare su un foglio bianco, parallelamente andare avanti con lo sviluppo, ma il miglior sviluppo in questi casi sono le gare, le corse, e come fai quindi a far nascere, tenendola segreta anche per 2 anni, una moto nuova? E questo è difficile, certo che non so fino a quanto Audi accetterà di non vincere. Per esempio, BMW dopo 4 anni ha deciso di ritirarsi dalla Superbike senza vincere un mondiale, mettendo quasi un budget illimitato, 60 persone, ci ha provato, doveva farlo l'anno scorso con Melandri, l'imputato maggiore è Melandri che ha sbagliato l'anno scorso perché ce l'aveva in pugno il mondiale. Quest'anno ha 41 punti, adesso ce ne sono ancora 3 a disposizione, 6 gare, tutto è possibile, però BMW che si ritira senza vincere un mondiale, questo la dice lunga, perché ha deciso altre strategie, va verso l'Asia, verso il Brasile per fare delle moto diverse, di cilindrata più piccola, perché lei è solo da 500 in su. Cioè, cambiando l'economia comunque mondiale, e il mondo della moto va dietro a questo. Cioè, adesso c'è più la moto dedicata per i vari continenti, ma ci sarà la moto globale di una cilindrata unica. E le case, come ha detto giustamente il numero uno di BMW, se investono adesso saranno competitive domani. Questo ha fatto molto parlare, però se una BMW prende questa scelta. Poi c'è anche la bella notizia di Suzuki che torna ed è subito competitiva. Questa sì è una bella notizia. però si vorrebbe anche magari una Aprilia tornare alle... Però siamo fermi in realtà al duello tra Honda e Yamaha e le altre fanno da contorno. Grazie Roberto Ungaro. A te e a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie Roberto Ungaro. A proposito delle difficoltà della Ducati, è evidente che quanto sta accadendo in questa stagione a Dovizioso in qualche modo rivaluta anche quello che ha fatto Valentino Rossi nei suoi anni in Ducati. Rossi che in questi giorni ha fatto capire di essere vicino alla decisione di abbandonare le corse. E sentiamolo Rossi. Secondo me adesso ci sono tre generazioni, perché c'è la generazione mia, cioè io che sono il più vecchio e che io sono della generazione di Capirossi, di Gibernau, Biaggi, cioè io con loro ero quello della generazione dopo, però io sono una generazione un pochino di mezzo. Poi dopo c'è stata la generazione di Lorenzo, Pedrosa e Stoner, che più o meno hanno la stessa età, e poi adesso c'è la generazione di Marquez, che è addirittura 3, 4, 5 anni più giovane. E cosa è cambiato? Adesso è più difficile perché c'è molta più professionalità e i piloti sono più preparati di 15 anni fa, sono più atleti, si allenano di più. Buon pomeriggio Giacomo Agostini. Buongiorno. Buon pomeriggio. A me fa sempre effetto sentire Valentino Rossi parlare da vecchio saggio del mondo del motociclismo. A un certo punto si è messo nella generazione di mezzo, in realtà che la verità è che non è più nemmeno della generazione di mezzo. È vero che è così da un po'. Io faccio fatica personalmente ad abituarmi. Credo che se dovessi dare una fotografia bella di questa prima metà della stagione, c'è la vittoria di Rossi ad Assen. Personalmente la ritengo un meraviglioso canto del cigno, però che bel canto del cigno. Allora, c'è qualche problema di collegamento con Giacomo Agostini, proviamo a recuperarlo. Eccomi, pronto? Eccoci, dicevamo, sì, parlavamo come la difficoltà di immaginarsi comunque Valentino Rossi come vecchio saggio che è oramai a un passo insomma dalla fine della sua carriera. Beh, insomma, Valentino è sempre Valentino, ci ha dato tante emozioni, tante gioie e quindi non possiamo dimenticarlo in un attimo come qualcuno fino a poco tempo fa pensava e faceva credere. Ha vinto una bellissima gara in Olanda, naturalmente c'è la zampata del vecchio leone, la vecchio leone c'è, quindi ha fatto una grande gara, è una bellissima vittoria, per lui moralmente è stata importante. Naturalmente lui lo sa anche, gli anni passano per tutti, i ragazzi giovani vengono avanti, hanno tanta fame, hanno 20 anni e quindi a 20 anni pensi molto meno che quando uno ne ha 30 o 35. Quindi anche lui, anche Valentino credo sa di questo, comunque come ho sempre detto non è finito, lui ogni tanto una grande zampata la darà sempre perché appunto a parte la sua grande bravura e anche la sua grande esperienza. Che voto diamo a questa metà stagione di Valentino Rossi? In fondo ne parlavamo prima con Roberto Ungaro e lì a 46 punti dal leader della classifica, volendo potrebbe anche essere considerato in corsa per il mondiale, anche se ovviamente stiamo parlando di un'impresa ai limiti dell'impossibile. Oddio, finché matematicamente non è assegnato il titolo la speranza c'è sempre, quindi la speranza è l'ultima a morire. Naturalmente è difficile perché su 8 gare ne ha vinta una, quindi è un po' dura. Comunque l'importante è che ci faccia divertire, l'importante è che, come ho detto prima, ogni tanto dia un colpo e ci faccia gioire. Ha detto che correrà fino a termine del contratto, che significa il 2016. Dobbiamo credergli o è una prima presa di coscienza di essere arrivato quasi alla fine della carriera, ma poi è difficile scendere dalla moto? Beh, quando sei innamorato è difficile lasciarla, questo fuori dei dubbi, quindi sarà una decisione molto dura, come è stata per me o come è stata per gli altri. Però insomma, se sei intelligente devi capire che a una certa età bisogna lasciare il passo a quelli più giovani di te. Per l'amor di Dio, Valentino è ancora giovane, 34 anni, insomma non possiamo dire che uno sia vecchio. però per il nostro mestiere ormai stiamo arrivando al capolinea, ecco. Qual è la scintilla che fa decidere che è arrivato il momento di scendere per un grandissimo campione come è Valentino Rossi? Qual è stata la scintilla anche per Giacomo Agostini, che è la leggenda del motociclismo? Ma sai, quando incominci a non più vincere, quando incominci a avere difficoltà, a quel punto devi pensare che ormai qualche hai fatto. Ripeto, se Valentino poi ha voglia ancora di fare qualche anno e si sente ancora in forma, perché no? Cioè, è un suo diritto. Certo, tutti aspettiamo da Valentino la vittoria sempre, perché ci ha abituati troppo bene, ci ha abituati a vincere tutte le domeniche, quindi anche arrivando secondo o terzo il pubblico non si accontenta. È un po', come ho sempre detto, come il caso mio: quando arrivavo secondo mi dicevano che ero finito. Anche se mi sembra che Valentino Rossi quest'anno si stia divertendo, in fondo io penso che con il suo grande orgoglio non accettasse di uscire di scena così come rischiava di capitare con la Ducati, quindi in maniera assolutamente anonima. Mi sembra di poter dire che la sua scommessa l'ha vinta, anche se questo vincere la scommessa non porterà probabilmente a tornare ad essere competitivo per il mondiale e a poter fare ragionamenti che riguardi la classifica fine stagione. Però mi sembra di poter dire che abbia la consapevolezza di aver dimostrato a tutti che aveva ancora qualcosa da dare, che non si era imborghesito. Sì, però dimentichiamo una cosa, l'ho detto prima: Valentino è abituato a vincere, Valentino è abituato a dare a tutti gli sportivi la vittoria quasi tutte le domeniche, quindi è logico che, se abituato così in alto, se non la dai più, insomma, qualcosa manca. Non è come uno che è sempre arrivato quarto, quinto, poi arriva secondo e tutti saltano di gioia. Quindi Valentino sa, credo, che fare quel che faceva prima è diventato difficile, insomma, quindi non può più fare quello che ci ha abituati a fare. Sì, ci abitueremo anche noi prima o poi, che la misura nuova di Valentino Rossi è non cercare di vincere, ma di accontentarci di qualche meraviglioso canto del cigno come quello di Assen. Esatto, ha detto esatto. Tra l'altro che lui mira a essere il più vecchio a vincere un gran premio nella storia del motociclismo. Il suo mirino è su Troy Bayliss, 37 anni. In realtà, ho letto da qualche parte, c'è anche un 44enne. In questo caso credo che Valentino Rossi non avrà nessuna possibilità di scrivere il suo nome in questo libro dei record. Comunque vale la pena seguirlo anche nella seconda metà di questa stagione, Agostini. Beh, fuori dubbi, come ho detto prima, non dobbiamo dimenticarlo, perché sempre la zampata lui lo può dare in qualsiasi momento, quindi diventa sempre una cosa, come si può dire, cioè, dobbiamo sempre aspettarci qualcosa di nuovo, ecco, quindi dobbiamo sempre stare allerta e aspettarci appunto questo qualcosa di nuovo. Grazie Giacomo Agostini. Grazie a voi, ciao a tutti. Grazie a Giacomo Agostini. Noi siamo arrivati in chiusura di questo nostro appuntamento. Io ringrazio Franco Piantanida, autore di questa puntata, Peter Bescapè in regia. L'appuntamento è per domani, tutti convocati a partire dalle ore 14. Un saluto anche da Giovanni Capuano.